reportage. Parigi, COP21. Il bilancio della prima settimana del vertice sul clima si chiude con un'incerta bozza di accordo. Di Cristina Carpinelli. Pour la conférence sur le climat, descendre en gare du Bourget. For the climate change conference, alert at Le Bourget. Sul treno diretto alla stazione Le Bourget di Parigi, una voce registrata ricorda a tutti i passeggeri che la conferenza sul clima è in corso. 3.000 giornalisti, 10.000 delegati e negoziatori, 150 capi di Stato venuti il 30 all'inaugurazione, 195 gli stati rappresentati, 40.000 i visitatori previsti che si muoveranno all'interno della cittadella che ospita la 21esima COP. L'accesso è limitato a coloro che hanno l'accredito e anche dopo i controlli restano rigidissimi. Metal detector in ingresso e agenti a verificare che tutto vada per il meglio. Un'organizzazione impeccabile e tantissima gentilezza è però ciò che resta nella memoria di chi è stato all'apertura di questo vertice. Una volta dentro ci si muove tra padiglioni dove è possibile incappare in negoziatori trafelati che da un'aula si trasferiscono in un'altra. Qualcuno si perde, il posto è immenso. Bueno, básicamente es un país muy vulnerable, es uno de los países más vulnerables del mundo al cambio climático y básicamente los efectos e impactos que hemos recibido. Siamo qui per chiedere che il Guatemala venga riconosciuto come paese vulnerabile. I cambiamenti climatici che noi viviamo sulla nostra pelle sono sconvolgenti. Abbiamo migliaia di morti ogni anno a causa di inondazioni e frane, ci racconta il capo negoziatore del Guatemala, Marcel Ozeida, del Ministero dell'Ambiente. La voce dei paesi in via di sviluppo, il loro grido d'aiuto, come quello appena pronunciato dal Guatemala, avrà un posto centrale qui a Parigi. Per la prima volta, infatti, il modo di lavorare dei paesi ricchi rispetto a quelli poveri è cambiato. In particolare, ad avere imparato la lezione rispetto agli insuccessi della conferenza sul clima di Copenaghen è stata l'Unione Europea, come ci spiega Francesco La Camera, capo delegazione del Ministero dell'Ambiente italiano, che porta le istanze europee al tavolo dei negoziati qui a COP21. Beh, questo tipo di conferenze hanno sempre l'elemento sorpresa, che è difficile stimare. Bisogna capire sino a che punto alcune delegazioni tenteranno o vorranno indebolire un po' il testo. Il grande momento politico che la giornata di oggi ha creato sicuramente favorirà un clima più, come dire, più pronto ad arrivare al compromesso in sede di negoziazione questa settimana e poi a livello dei ministri. Quindi noi ci aspettiamo un buon accordo che sia durevole, che sia inclusivo e tenga al suo interno queste regole di governance, cioè monitoraggio, rapporto e valutazione, che consenta nel tempo al sistema globale, al sistema Nazioni Unite di fronteggiare la sfida dei cambiamenti climatici che è successo. Si può dire così, anche forzando un po' la mano, che sul clima e sui cambiamenti climatici c'è stata per la prima volta forse una politica estera europea forte, consolidata? Diciamo, intanto vi è una tradizione europea. Noi siamo sempre stati nel gruppo dei paesi delle Nazioni Unite, l'area che ha più insistito su questo. Siamo sempre stati all'avanguardia. Forse quello che sia un attimo corretto, fermo restando l'unità all'interno dei paesi, è l'atteggiamento dell'Unione Europea nei negoziati. Nel passato forse siamo venuti molto spesso a insegnare agli altri cosa fare e questo poi ci ha portato un po' fuori dal negoziato. Questo oggi, anche grazie probabilmente al ruolo che abbiamo avuto durante il periodo di presidenza, abbiamo dato la disponibilità a dialogare con gli altri, comprendendo le ragioni. E quindi probabilmente oggi siamo più al centro del negoziato rispetto a qualche tempo fa. Quindi anche questo è un elemento positivo, se vogliamo. La Camera e tutti gli altri capi negoziatori stanno lavorando in questi giorni per arrivare a una bozza tecnica da presentare ai propri ministri dell'ambiente, che da lunedì prenderanno il loro posto nella trattativa per raggiungere un accordo per contenere di 2 gradi il riscaldamento globale ed elaborare strategie per il contenimento, dunque, delle emissioni inquinanti. L'accordo non può essere troppo vago, ma neppure tanto dettagliato da creare problemi ad alcuni paesi, prima fra tutti gli Stati Uniti, in bilico tra una presidenza, quella di Obama, molto impegnata sul fronte ambientale, e un congresso invece determinato a non accettare alcun veto che venga dall'estero. Questo ci spiegano i tecnici con cui parliamo. Nel frattempo, una nuova bozza si palesa, proprio a fine settimana. Il testo è più snello, 50 pagine, comprese le 26, in cui sono racchiusi gli impegni vincolanti, prima erano 31. Tuttavia, emerge immediatamente come la questione chiave sia ancora ben lontana dall'essere risolta e sul tavolo restano troppe opzioni. In settimana, intanto, per aumentare la risonanza mediatica dei temi e per rendere consapevoli i partecipanti alla conferenza, vengono organizzati diversi focus. Il primo sugli abitanti delle isole del Pacifico, la cui vita è messa a serio rischio dai cambiamenti climatici, come ci spiega questa delegata della Papua Nuova Guinea, venuta qui per sottolineare che forse questo accordo non servirà a salvare comunque le loro terre. Altro focus di grande rilievo questa settimana COP21 è stato quello sul patrimonio forestale mondiale. Anche in questo caso sono stati proprio i paesi con il più alto tasso di rischio di scomparsa delle loro foreste a lanciare la discussione sulla necessità di concretizzare gli impegni di governi, settore privato e società civile per un maggior sforzo internazionale che elimini la deforestazione e il degrado forestale naturale in pochi decenni. In questo ambito l'Unione Europea è stata all'avanguardia e in prima linea da sempre, come spiega ai nostri microfoni Arthur Runge Metzger, direttore per la strategia sul clima della Commissione Europea. Dal 2006 l'Unione Europea ha contribuito con 3 miliardi di euro alla protezione delle zone forestali. Significa che l'Unione Europea da sola ha coperto il 70% dei finanziamenti mondiali dedicati alle foreste tropicali. L'Unione Europea ha ben chiaro cosa significa questo investimento. Non siamo qui a ribadire l'importanza della conservazione della biodiversità, della ricchezza delle foreste. Il senso del nostro lavoro è anche rivolto alla possibilità di frenare per tempo i disastri collegati alla deforestazione e che soprattutto le popolazioni locali pagano fortemente. Sul fronte delle foreste dobbiamo poi fare un distinguo. Come Unione Europea abbiamo un lungo, storico e consolidato legame con le zone forestali dell'Africa. Abbiamo progetti in corso da lungo tempo. Sul fronte asiatico e del Sud America stiamo lavorando per aumentare la nostra presenza, anche con finanziamenti che stanno partendo come singoli stati. Ad esempio, in questi mesi, associazioni a tutela delle foreste in Germania, Gran Bretagna, Norvegia stanno lavorando perché a livello europeo si arrivi a stanziare un nuovo capitale per sostenere la tutela delle foreste, per sostenere la riforestazione. Insomma, si lavora molto a livello europeo perché sappiamo quanto le foreste siano importanti per tutti noi. Va ricordato che circa 1 miliardo di persone nel mondo dipendono direttamente dalle foreste per la propria sussistenza e ogni anno circa 12 milioni di ettari di foresta vengono distrutti. Questa perdita di foresta è responsabile di circa l'11% delle emissioni globali di gas a effetto serra. L'avvio di questo percorso sulle foreste si era già visto a Lima. A Parigi si cercherà adesso di giungere alla stesura di procedure e modalità efficaci di gestione sostenibile di questo obiettivo comune, ce lo ha spiegato il ministro dell'Ambiente Manuel Pulgar Vidal, ministro dell'Ambiente del Perù. Sì, abbiamo una nuova legge forestale e sui regolamenti, abbiamo una strategia di bosche e cambio climatico. Il Perù ha una legge forestale che è molto cresciuta nel tempo e viene presa ad esempio anche dagli altri paesi, ci dice il ministro, che sottolinea come sia stata proprio l'Unione Europea in tempi non sospetti a sostenerli proprio in questo percorso. Le foreste sono uno dei passaggi chiave di questo incontro, ci spiega invece la tedesca Charlotte Streck, direttore del Climate Foundation, un'associazione che da anni si batte per ottenere maggiori finanziamenti sul tema e un accordo rigido per contenere la deforestazione. The situation on the forest, it's not looking good, quite honestly. La situazione per quanto riguarda le foreste non è florida, se dobbiamo essere onesti. Stiamo continuando come Unione Europea e noi di Climate Focus a sottolineare quanto sia fondamentale concentrarsi su questo. L'allarme sulle foreste resta dunque altissimo e soprattutto non siamo ancora in linea coi parametri che ci prefiggemmo nel 2014, quando un gruppo rappresentato da governi, associazioni e organizzazioni delle popolazioni indigene delle foreste stilarono un documento di impegno. In quel caso dicemmo che il primo obiettivo era arrivare entro il 2020 a una riduzione del 50% della distruzione delle foreste. foreste. Se guardiamo cosa è stato fatto in un anno, i dati non sono certo incoraggianti, ma sono sicura che è anche presto per fare un bilancio. Va sicuramente meglio la questione della riforestazione. L'obiettivo è arrivare entro il 2020 ad aver riforestato 150 milioni di ettari. Su quel fronte stiamo procedendo bene. Una settimana che ha visto anche un focus sull'agricoltura e una giornata interamente dedicata alla società civile e alle ONG con dibattiti e tavole rotonde. Molto attive le organizzazioni non governative e le associazioni che qui a COP21 stanno portando anche molti temi e spunti su cui lavorare. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.